bianco come cera, pani e veleno mi fanno mangiare. Cerco calore e aria per campare, che ora lo sole mi vuole rubare. Madri, montagna braccia di gommia, e dammi un po' d'amore e di poesia. Canto la vita di tutta la gente, canto la storia e nudo si la senti, strascino i feriti e arrivo stanco, e porto a mare lacrime di fango. Lamenti il tuo cammino, amore moriando, e il tuo dolore non lo fai sentire. Ti infilzano le carni e sai patire, amico fiume, no, non te ne andare. Senza di te, ma chi può mai cambiare? Uomo di latta e petto senza cuori. Lasciate un filo di voce al mio mestiere e un pianto di chitarra accompagnare. Amico mio, per te voglio cantare, che le tue pene tutti hanno a sapere. O sangue della terra avvelenato, che scorri per i monti e le vallate. Giganti della chimica sventata, sono i tuoi assassini mascherati. Tu porti amore e acqua agli assetati, e quelli invece t'hanno intossicato. E ferma di cavallo che io scendo, amico, nel dolore ti ho ritrovato, e se assassinato lo fiume muori, un Don Chisciotte vendica il tuo onore. L'amore.